in primo piano. È lui il nostro Ejafal Jokull, il vulcano islandese di cui si occuperà anche Oscar Giannino oggi alle 9, che si pronuncia così, oppure no, si pronuncia come la nostra ascoltatrice Claudia Manni ci ha spedito la vera pronuncia in audio, l'abbiamo fatta già sentire ieri, ma oggi il nostro Peter Bescapè in regia ce la fa riascoltare. Avete capito qualcosa di questo groviglio di consonanti e vocali, Peter? Vabbè, io lo chiamo Ejafal Jokull, che è sempre meglio di chiunque fa questo lavoro e manco lo nomina. Allora, le aperture sono tutte dedicate a questo. L'Europa ricomincia a volare, il Sole 24 Ore, il Corriere, graduale ripresa dei voli, Repubblica, nube sull'Italia, i voli ripartono, il Messaggero, la nube arriva in Italia, la Stampa, cambiano le regole, si vola. Accidenti, il Messaggero, la nube arriva in Italia, è abbastanza drammatico, sembra che ci stiano ricoprendo di chissà cosa. Vabbè, poi c'è chi sceglie la politica, altre aperture le vedremo dopo, ma giusto per capire appunto che succederà di questo vulcano, io ricordo poi Oscar Giannino ne parlerà alle 9, quindi do una breve lettura. Sul Sole 24 Ore ci sono quattro pagine, le prime quattro pagine dedicate a questo. Riaprono gli aeroporti, come abbiamo detto, alle 8 gradualmente. Ci sono, seguite Radio 24 e vi aggiorneremo ovviamente per le notizie. Sul Sole invece ci sono le domande e risposte. Perché gli aerei non volano? Chi decide se si può volare? Che test sono stati fatti? Ci sono anche molte storie curiose. A pagina 3 c'è per esempio il rientro in taxi di alcuni che sono rientrati a Milano, hanno speso 14.000 euro, beati loro che insomma se lo possono permettere. Ieri ho preso un taxi a Milano e mi hanno confermato, il tassista mi diceva che c'è chi ha fatto corse suoi colleghi per Oslo o per Amsterdam o per Lione, e si viaggiava dalle 1.000, 2.000, 3.000 euro, 1 euro al chilometro. Questo mi ha detto il tassista, in genere viene applicata questa tariffa, ogni chilometro 1 euro. Sempre dal Sole 24 Ore, consegne alimentari e rassegne fieristiche penalizzate dallo stop, a pagina 5, sono appunto le consegne alimentari, il settore produttivo più colpito dallo stop dei voli, ma anche il conto salato per il turismo. Marica Gervasio scrive che sono quasi 100 milioni di euro i danni, tanto ammontano i danni, mentre le compagnie, a pagina 6, il conto dei danni, le compagnie dicono persi 600 milioni di euro, scrive Gianni Dragoni, 2/3 dei costi tra aziende europee. Secondo Air France a rischio 500.000 posti di lavoro. Insomma, i conti di questo nostro amico vulcano, perché insomma è pur sempre la natura e quindi è pur sempre amica, teniamocela amica, sono conti salati. Trovate tantissimo su tutti i giornali, commenti, esperti, sedicenti esperti che dicono la loro. E anche questo vulcano ha lasciato a terra anche il Barcellona, che comunque è arrivato a Milano. Stasera c'è la partita Inter-Barcellona, e allora per concludere così con un sorriso, Gene Gnocchi in prima pagina della Gazzetta: brutte notizie per l'Inter, il pullman del Barça è arrivato e non hanno dimenticato Messi all'autogrill. Insomma, questo vulcano ce ne sta combinando un po'. Ma vi rinvio appunto alle 9, Oscar Giannino approfondirà insomma quelli che sono i conti e i costi di questo vulcano. Gli gireremo anche l'audio del nostro, della nostra pronuncia, chissà se anche lui si sbizzarrirà. Allora, l'altro tema che trovate sui giornali sicuramente affrontate è quello della politica, ma d'altronde l'avevamo detto, questa settimana sarà così. Giovedì c'è la direzione del Popolo della Libertà, dove va Fini, che succederà con Berlusconi. Il gelo di Berlusconi è solo vecchia politica, lo leggiamo a pagina 13 del Corriere della Sera. Ieri ha detto Berlusconi, la quadra, questa famosa parola, la quadra, non dipende da me. E poi l'elogio a Bossi, è l'unico alleato che Dio ce lo conservi. Insomma, ci si avvicina a giovedì e ci si avvicina probabilmente non in maniera, non, senza stemperare la tensione. Ci sono una serie di interviste, parlano ovviamente chi, soprattutto i giornali, vanno a cercare gli ex di AN. Allora parla il ministro Giorgia Meloni al Corriere della Sera: la scissione è un suicidio, io sto lavorando, parlo con Fini, parlo con Berlusconi, lavoro perché si trovi un accordo. alla riunione degli ex DN di oggi non sono stata ancora invitata, ma voglio andare a vedere se mi invitano. Se si tratta di una conta, non ritengo che sia opportuna, anche se tutti puntano a questo, la conta. Anche Libero, a pagina 4, meno di 40 nel club di Gianfranco. Cioè, si cerca di capire quanti stiano di parlamentari dalla parte di Gianfranco Fini, nel caso di una, per esempio, o non scissione di partito, ma la formazione di cosiddetti gruppo autonomo in Parlamento. Libero fa un po' i conti, appunto 22 parlamentari ex N di Lombardia, Piemonte e Liguria, 18 firmano un documento contro l'ex leader, defezioni anche nel nord-est, insomma si cerca di capire che succede. Repubblica intervista Mirko Tremaglia, che dice: io sto con Fini per rispetto del mio mezzo secolo di politica attiva, perché la sua svolta è in linea con la battaglia contro la partitocrazia. E allora chiede all'intervistatore: sta dicendo che Berlusconi è un simbolo della partitocrazia? Sto dicendo che noi, con la nostra storia e la nostra tradizione politica, non diremmo mai che siamo i migliori mai visti negli ultimi 150 anni. Però il consiglio che ha dato Gianfranco è quello di evitare la scissione. Invece ci vogliono il gruppo parlamentare, ci vuole il gruppo parlamentare autonomo. Insomma, dove andrà, dove non andrà? Bisogna sempre tenere d'occhio in questi giorni il foglio di Giuliano Ferrara, perché lo ribadisco, lo ha scritto anche oggi il Corriere della Sera, ieri pare si sia sentito con Fini, è diventato consigliere fidato di Gianfranco Fini, Giuliano Ferrara, c'è un fondo in prima pagina. La novità, scrive il foglio, è che ora sono gli ex colonnelli che premono su Berlusconi perché Fini vada fuori dal PDL, cioè Altero Matteoli, Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri, mentre Gianni Alemanno, cioè il quarto dei colonnelli, è quello che secondo il foglio mantiene una posizione più mediana tra i cofondatori, l'unico ancora impegnato a scongiurare lacerazioni irreversibili. Ma invece Matteoli, La Russa e Gasparri sarebbero questi a spingere ora loro a dire a Berlusconi: fallo andare pure via, tanto è il fastidio del Cavaliere per l'ipotesi che l'ex leader di N costituisca dall'interno una minoranza organizzata che questa eventualità comincia a essere quotata. Ma chissà. Intanto Fini prepara un documento di dissenso costruttivo da presentare dopodomani alla direzione nazionale. Chissà dove andranno, chissà se ci sarà la scissione, chissà se ci sarà il gruppo parlamentare autonomo. Forse tutti dovrebbero ascoltare le parole del leghista Matteo Brigandì, leghista un po' anomalo perché è un leghista credo siciliano, comunque insomma sicuramente del sud, avvocato combattivo, che se n'è andato dal Parlamento, si è dimesso dal Parlamento. La versione sua, cioè Brigandì, dice: sapete perché mi dimetto dal Parlamento? Un gesto incredibile. Perché i parlamentari non contano nulla. Parla al quotidiano nazionale La Verità: i parlamentari non contano nulla. Ecco, questo lo leggano magari anche tenendone conto quelli che vogliono fare appunto i gruppi autonomi. Anche se in quel caso i numeri contano, insomma, se sono tanti. Un gesto inconsueto il suo, lasciare lo scranno da deputato. E Brigandì dice: ma il nostro ruolo, guardi che ormai è inutile, è velato di ipocrisia. Lei si ricorda qualche disegno di legge partorito in Parlamento che non sia finito come tanti ammucchiati nei cassetti? E Umberto Bossi che dice della sua scelta? Ho chiesto di parlargli, non ne ho ancora avuto l'opportunità. Vede, ormai, dice Brigandì, il Parlamento è come la sentina della società. Le iene vogliono chiedere a qualcuno se conosce a memoria l'articolo 1 della Costituzione. Vengono in Parlamento, dove ci sono anche persone come una nostra deputata che fino alla settimana prima di essere eletta faceva i turni in fabbrica come operaia. Beh, ma insomma, chiede Flavia Baldi, mi sembra che sia il minimo di conoscenza per un parlamentare l'articolo 1 della Costituzione. Ma perché non vanno in qualche tribunale a fare la stessa domanda a un sostituto procuratore o un maresciallo dei carabinieri? Risponde Brigandì. Dicono che si debba ridurre il numero dei parlamentari. Benissimo, se non facciamo niente siamo inutili. Ma io, per esempio, ho presentato un'interrogazione riguardo lo stipendio di Luca Palamara, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, un magistrato che vedo sempre in TV. Risposta: l'attività della Procura di Roma va bene, gli stipendi sono quelli previsti dalla funzione di magistrati. Capisce? Insomma, Brigandì si toglie qualche sassolino dalla scarpa dicendo: i parlamentari non contano nulla, ma non è che siamo sempre solo noi insomma, l'emblema della casta. A proposito di politica, attenzione perché troverete due articoli simili su Repubblica e Il Giornale. Il Giornale la presenta così: spuntano nuove intercettazioni e il palazzo trema. Repubblica la presenta così: affari con politici e magistrati, Carboni sotto accusa a Roma. Chi è Carboni? È Flavio Carboni, che da molti è sempre definito, tra virgolette, il cosiddetto faccendiere Flavio Carboni, che è stato anche coinvolto, assolto per la verità in primo grado, sulla morte del banchiere Roberto Calvi, trovato impiccato nell'82 a Londra sotto il ponte dei Frati Neri. Di cosa si tratta? Lo leggo dal Giornale. Un terremoto giudiziario si prepara a far tremare il paese. L'epicentro è Roma, dove c'è un'inchiesta alla procura, dove nei faldoni ci sarebbero nomi di numerosi politici di primo piano, funzionari di un importante dicastero, diversi magistrati, tutti coinvolti in un'inchiesta, tutti intercettati. E qualcuno in procura dice: se i brogliacci o le trascrizioni di alcune delle conversazioni finissero sui giornali, scoppierebbe il finimondo. Indagando, appunto, si sarebbero imbattuti i procuratori in Flavio Carboni, l'imprenditore assolto, come detto, nel processo di primo grado per l'omicidio Calvi. Il nome di Carboni sarebbe stato collegato, scrive il Giornale, ad alcuni politici, tra cui il senatore Marcello Dell'Utri, il coordinatore del PDL Denis Verdini, nonché altri. Questi due stessi nomi li trovate su Repubblica. Flavio Carboni sarebbe stato coinvolto in intercettazioni in cui ci spuntano anche Marcello Dell'Utri, Denis Verdini. Staremo a vedere, certo. Quando io leggo: se i brogliacci di queste intercettazioni o di conversazioni finissero sui giornali, scoppierebbe il finimondo, già aspetto i giornali dei prossimi giorni. Parla anche, per la prima volta lo fa, Marrazzo, l'ex presidente della Regione Lazio, coinvolto nello scandalo con i transessuali, che insomma sapete. La Cassazione ha stabilito: nessun rilievo penale nei suoi confronti, fu un complotto dei quattro carabinieri ai suoi danni. E Marrazzo, che ha parlato, insomma, ha incontrato qualche giornalista, trovate intervista su Repubblica, sul Messaggero, sulla Stampa, parla per la prima volta, leggo da Repubblica Giovanna Vitale: ci sarà tempo e modo per raccontare tutto, lo farò a modo mio, con una lunga intervista alla RAI, dove sono pronto a tornare per ricominciare il mio lavoro. Poi, insomma, certo, ho da rimproverarmi, ho sbagliato, ho fatto male, molto male a mia moglie, alle mie figlie, non smetterò mai di ringraziarle per l'amore con il quale mi sono state a fianco, ma certo ho vissuto tutto in silenzio, anche le falsità, una lettera al Papa, non l'ho mai scritta, hanno detto che ero pronto al gesto estremo, non ho mai pensato al suicidio, se è questo che intendete. Sono sempre stato un uomo forte, faccio 1600 addominali al giorno, ho iniziato a correre, ora sono pronto per la mezza maratona, mi sto allenando per correre la mezza maratona di Oslo. Tornerò, sono pronto a tornare in Rai, ho sempre detto la verità. Parla Marrazzo per la prima volta nello studio del suo avvocato, incontrando qualche giornalista. Allora, trovate molto polemiche ancora sulla vicenda Emergency, addirittura in prima pagina del Giornale: non ringraziano chi gli salva la pelle, ci sono la foto dei tre di Emergency, perché rientrano oggi non con il volo di Stato, il volo civile, non si è capito bene se l'hanno rifiutato, ma Emergency dice: non abbiamo rifiutato nulla. Vittorio Feltri scrive in maniera molto dura anche contro Giuliana Sgrena, Le Simone, Simona Pare, Simona Torretta, insomma, una polemica un po' italiana, la accantono, ma trovate comunque su Emergency ancora polemiche, mentre voglio tuffarmi nella questione mafia, libri, pubblicistica, Saviano, perché, come detto il nostro sondaggio, Berlusconi ha ribadito venerdì scorso, perché non è la prima volta che lo diceva, mafia troppo pubblicizzata, siamo un paese che abbiamo un'immagine all'estero rovinata da una troppa pubblicistica dedicata alla mafia. Non che non bisogna scriverne, ha detto Berlusconi, ma siamo la sesta, settima mafia nel mondo, in teoria, ma risultiamo la prima perché c'è una pubblicistica smisurata. Ha citato nuovamente La Piovra, ma ha citato per la prima volta Saviano, Gomorra. Si è scatenato il putiferio, il dibattito. Saviano ha scritto su Repubblica: non so se posso più scrivere per Mondadori. Marina Berlusconi gli ha risposto: sono d'accordo con mio padre e il presidente del Consiglio, ma rimanga con Mondadori lei, insomma, perché siamo una casa editrice liberale e libera. Il dibattito è ovunque, a fianco di Saviano, perché difendiamo la libertà di scrivere. Gianarturo Ferrari oggi fa un'intera pagina sul Corriere. Dal 97 al 2009 è stato direttore generale della divisione libri del gruppo Mondadori. Ora presiede il Centro per il Libro e la Promozione della Lettura istituito dal Consiglio dei Ministri. Gianarturo Ferrari scrive: l'editoria libraria è una difficile arte, spesso incompresa. Non la comprendono quelli che pensano sia prevedibile. Non la comprendono quelli che vedono negli autori dei dipendenti degli editori, degli esecutori dei voleri o degli indirizzi o degli intenti degli editori. Cosa che non solo è fattualmente, cioè legalmente falsa, essendo che gli autori sono i proprietari della loro opera, ma è soprattutto falsa sotto un profilo sostanziale. Se proprio si deve usare una metafora, autori ed editori sono soci in affari. Gli uni si giovano quando si giovano degli altri in un rapporto vicendevole. Poi Gianarturo Ferrari ricorda: quando noi pubblicammo Salman Rushdie, i suoi versi satanici, non ci chiedemmo, non entrammo nel merito se le pagine tali o talaltre fossero o meno blasfeme, come asseriva l'Ayatollah Khomeini. Difendemmo il diritto di Rushdie a scriverle, dell'editore di pubblicarle e dei lettori di leggerle. Difendemmo, cioè in concreto e con rischio, la libertà di espressione. E poi dice: noi non possiamo non essere al fianco di Saviano per questo e nei limiti del possibile tutelarlo e difenderlo. C'è Adriano Sofri, Saviano, il cavaliere, la cosmesi universale, in prima pagina. C'è Il Fatto, a pagina 3, divorzio a Gomorra. Il Fatto spinge molto su questo dibattito che in realtà online è molto diffuso, cioè di dire: ma è etico per una certa sinistra pubblicare con Mondadori che è di Berlusconi? C'è il Riformista in prima pagina, c'è Libero in prima pagina, anche per Saviano, meno male che Silvio c'è, parliamoci chiaro, dice Libero, ha aumentato le vendite questa uscita di Berlusconi. C'è Il Giornale a pagina 28, Gomorra è anticapitalista. Insomma, un dibattito incredibile. È il nostro sondaggio. Vi chiediamo: film e libri sulla mafia, secondo voi, rischiano di fare poi una cattiva pubblicità all'Italia? Parleremo anche della vicenda Saviano, ovviamente. Alle 8.30 dovete votare su radio24.it. Sono alle segnalazioni conclusive. Voglio fare una mia dedica personale a Dino. Chi è Dino? Dino è un orso bruno. Gli ostaggi dell'orso Dino, a pagina 19 della Stampa. L'appetito dell'orso Dino è cosa da psicologia spicciola, ma crea ugualmente scompiglio nella comunità di Posina, 600 metri nelle prealpi venete del Vicentino. È arrivato l'orso Dino, è arrivato dalla Slovenia, è solo che l'orso Dino soffre di bulimia. L'altra notte si è fatto due asini, Nina e Sniker, ne ha quasi fatto fuori un terzo, Fanfi, che si è salvato per il rotto della cuffia. Gli abitanti di Posina sono 700, ai ritmi della natura sono abituati anche alle sue crudeltà, non ce l'hanno con Dino, per carità. Però insomma stanno cominciando a spazientirsi, perché spariscono le galline, spariscono gli asini per l'appunto, e allora hanno iniziato con botti, petardi, nella speranza che il rumore metta in fuga l'intruso. Ricorda la vicenda, vi ricordate di Bruno, un altro orso che arrivò in Trentino, poi fu cacciato, fu mandato via perché stava facendo razzia di animali. Appena varcò il confine, lui, inconsapevole, con la Germania, fu abbattuto dai bracconieri. E allora, sì, cari abitanti di Posina, difendete le vostre galline, difendete i vostri asini. Non cacciatelo però in Slovenia, perché magari gli sparano, non so, qualcuno sarà già pronto, l'orso Dino, ad adottarlo qui in Italia. Vedrete che ci sarà una bella petizione, sono sicuro anche che la nostra Sara Spreafico in redazione sarà la prima a firmarlo. Salviamo l'orso Dino. Ci fermiamo qua.